てください、あの子守唄を。昔の鳥の優しい声で、また会う良き日の祈りを込めて。ママ私の命のまま、ママいつまでも変わらないで、バラ色の顔に微笑をたたえ、寄せくる浮世の波にもめげず、私の心の内に美しく生きていてね、いつまでも。Mamma son tanto felice perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice, vive lontano perché. Mamma, solo perché la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando di Maria venne queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si sanno più. Mamma, ma la canzone mia è più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più.